Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, benvenuti a Salva Danaio. Shopping negli outlet, i mobili di Ikea, i voli di Ryanair, il conto corrente online. Sì, lo so, usiamo tanti termini inglesi, ma ci siamo ormai abituati da tempo a questo linguaggio che descrive un cambiamento molto importante avvenuto nella nostra società, un cambiamento che ha riscritto larga parte delle abitudini di consumo di quasi tutti noi. Parliamo della filosofia low cost che sta investendo ogni campo, superando anche molte diffidenze da parte dei consumatori, ma in certi casi scontrandosi ancora con i pregiudizi di una larga fetta di questi, che ritengono ancora, forse a volte hanno anche ragione, magari stamattina avremo anche modo di sentire le loro motivazioni, ritengono ancora, dicevo, che la ricerca del risparmio non possa sposarsi con la qualità dei servizi e dei beni acquistati. E allora, low cost, quali nuove strade sta percorrendo questo fenomeno? Dopo i voli aerei, il mondo dei servizi bancari e assicurativi online, dopo Ikea e mutui online, quali altri campi produttivi possono essere contagiati? Naturalmente il termine deve essere inteso in senso positivo dalla filosofia low cost. E cosa vuol dire esattamente agire secondo questo principio, sia dal punto di vista delle aziende, sia dal punto di vista delle azioni e delle scelte dei consumatori? Noi stamattina ne parliamo perché è un mondo che cambia continuamente e ogni giorno ci presenta delle belle ed interessanti novità. Allora ne parleremo con chi lo studia costantemente questo fenomeno da tempo, l'ingegner Giorgio Rizzo, una lunga esperienza nel campo del marketing ed esperto di dinamiche di consumo, che ha scritto Low Cost Mania, edito dal Sole 24 Ore, moda passeggera, scelta obbligata o nuovo stile di vita, indicazioni e strumenti per l'evoluzione delle strategie di consumo. Ingegner Rizzo, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E grazie anche, un gradito ritorno per la nostra trasmissione, al dottor Andrea Cinosi, che invece è presidente di Assolo Cost, che è l'associazione, l'organizzazione che raduna queste aziende che producono e commercializzano secondo questi principi. Presidente Cinosi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori, all'ingegner Rizzo che so che conoscete molto bene, perché ecco, io forse non sono stata molto precisa. Il libro è firmato dall'ingegner Rizzo, ma comunque lei ci ha messo lo zampino in diverse parti, in diversi capitoli. Quante aziende sono associate ad Assolo Cost ad oggi, dottor Cinosi? Attualmente abbiamo associato 20 aziende, nonostante gli operatori che utilizzano l'etichetta low cost siano ben di più, e questo perché facciamo una seria e rigida analisi degli operatori che operano nel low cost in maniera seria e garantita. Selezione all'ingresso quindi molto importante, in realtà i candidati sarebbero molti ad entrare, come dire, a volersi fregiare del marchio Assolo Cost. Dottor Cinosi? Assolutamente sì, nell'ultimo anno abbiamo bocciato oltre 30 richieste di ammissione. Ah, però, insomma, allora ci deve raccontare anche qualche retroscena rispetto alla bocciatura, perché anche questo è un indice di serietà di queste aziende che magari potrebbe servire a far superare tutte quelle resistenze e diffidenze di cui parlavamo prima per molti consumatori. 800 24 0024, il numero verde per intervenire a Salva Danaio, esprimerci le vostre curiosità o, se volete, le vostre perplessità rispetto a questa filosofia, o il vostro consenso, il vostro plauso. 349-238-6666, il numero che invece potete utilizzare per scriverci. Prima di cominciare la nostra chiacchierata con l'ingegner Rizzo, con Andrea Cinosi, un'occhiata alla borsa, invece, che stamattina pure non ha mancato di riservare qualche sorpresa, perché era partita male la seduta in Europa, di nuovo all'ingiù dopo i cali di ieri. Era partita male perché in sostanza dagli Stati Uniti sono arrivate indicazioni non proprio confortanti dalla Federal Reserve, dalla Banca Centrale Americana, che ha detto: attenzione, stiamo riprendendo il sentiero della crescita, ma insomma non in maniera così convincente come credevamo almeno fino a qualche settimana fa. E quindi la Banca Centrale Americana ha rivisto al ribasso le stime di crescita degli Stati Uniti per i prossimi mesi, per cui ancora cautela, ancora prudenza, una situazione che ritiene, stamattina lo ha certificato anche la Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile, una situazione di bassi tassi di interesse. Giornata in cui entrano davvero nel vivo le trimestrali americane, oggi tocca a comparto bancario iniziare il valse delle trimestrali con JP Morgan e poi poi le altre seguiranno nei prossimi giorni. Stasera ci saranno anche i risultati di Google. Piazza Affari meno 0,26%, Parigi meno 0,09%, Francoforte più 0,10%, agguanta il territorio positivo, Londra meno 0,30%, Milano oggi... Gli acquisti sono particolarmente concentrati sull'Ottomatica, che guadagna il 3,50%, su Impregilo, che guadagna 2 punti, Luxottica in rialzo di 1 punto, Snam Rete Gas più 0,7% con Campari, Fiat più 0,59%, nonostante il terribile dato sulle immatricolazioni di auto nuove in Europa in giugno, che ha visto il gruppo scendere come quota di mercato al 7,3% dall'8,6% del mese precedente, anzi di un anno fa, scusate, il titolo appunto era partito con un forte calo, adesso invece sta recuperando. I cali più forti e quindi superiori al punto sono stamattina su Atlantia, sul Banco Popolare, su Intesa San Paolo, su Buzzi Unicem, su Telecom e su Azimut. L'euro invece addirittura è proiettatissimo verso la soglia di 1,28, 1,2793 il rapporto di cambio in questo momento. Stamattina buon successo di un'asta di titoli di Stato spagnoli e qui insomma il mercato obbligazionario si va normalizzando, questa ci sembra una buona notizia. Il Tesoro spagnolo ha collocato 3 miliardi di euro di obbligazioni in 15 anni, la domanda aveva superato 2,5 volte l'offerta. Buona notizia, meglio così. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, low cost money. Il fenomeno delle tariffe low cost è letteralmente esploso negli ultimi anni, andando a rivoluzionare i settori più disparati. Dalle compagnie aeree, dalle quali questa filosofia ha preso il via, è infatti arrivato a contagiare l'ambito medico e quello dell'assistenza legale. Senza dimenticare l'abbigliamento, con gli outlet sempre più diffusi e presi d'assalto, e le telecomunicazioni. Qual è il segreto di questo successo? Di base, la consapevolezza che un prezzo basso non significhi più, per forza, un prodotto scadente. Anzi, il low cost lentamente è riuscito spesso a diventare sinonimo di merci e servizi di qualità che soddisfano molteplici esigenze. Alla base di questa filosofia non c'è soltanto il fattore crisi, che naturalmente spinge a fare acquisti più oculati, ma una nuova identità del consumatore. Individuo libero alla ricerca di esperienze nuove, che non si accontenta di un acquisto mediocre e cerca un'offerta continuamente aggiornata. Una vera e propria nuova mentalità, dunque, che ha portato il consumo low cost ad essere identificato addirittura con un modo intelligente di spendere il denaro, risparmiando e al tempo stesso scoprendo prodotti alla moda, utili e divertenti. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Io volevo salutare Teresina perché le ragazze del centralino mi stanno segnalando una telefonata di questa ascoltatrice, una signora che ha qualche anno che però voleva salutare tutti, e allora visto che capita la sua telefonata nel corso di Salvadanaio, io ricambio il saluto da parte di tutta la radio, perché ci sembra anche molto carino quando gli ascoltatori hanno questi gesti così solo di affetto nei nostri confronti. Magari non vogliono intervenire sugli argomenti che scegliamo, ma puramente vogliono manifestarci appunto il loro affetto. Allora, ingegner Rizzo, eccoci qua. Lei si occupa da tanti anni di marketing dei consumi, lo dicevo all'inizio, di dinamiche dei consumi, di tutto quello che cambia nel nostro paese appunto, ma anche su scala internazionale, perché poi in qualche maniera anche l'introduzione della filosofia low cost deve essere attribuita in qualche maniera ad un mercato sempre più globalizzato, insomma agli scenari economici internazionali. Mi chiedo, che cosa l'ha colpita di più in questo periodo dedicato allo studio del fenomeno low cost, di questo cambiamento così importante insomma per la società dei consumi? E soprattutto, lei lo sperimenta sul campo, fa l'assicurazione online, fa la spesa all'hard discount? Allora, bene, colgo l'occasione per presentarmi in un secondo. Io ho fatto 20 anni di esperienza nell'industria, nel settore del marketing, collaborando anche con molte università, e quindi sono riuscito a vedere sul campo come si sono evoluti i consumi negli ultimi anni. Quello che risulta impressionante, cito alcuni titoli e cito testualmente alcuni titoli che giornali importanti hanno fatto recentemente: Corriere della Sera, il bello di spendere meno, Il Sole 24 Ore, una vita low cost, perfino Il Mondo, shopping meditato come stile di vita. Se pensiamo che in Italia è risaputo che siamo un popolo di consumatori, un popolo attento al bello, al prezzo, quello che è impressionante è che come un fenomeno del low cost in Italia sia oggi arrivato, e cito dati veri, assolutamente affidabili, si è arrivato a sfiorare i 70 miliardi di euro, che è una cifra impressionante, con una crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Quindi vuol dire che gli italiani stanno lentamente, perché prima di noi sono arrivati altri popoli in Europa più all'avanguardia, a essere molto attenti a questo discorso di low cost. La parola chiave credo sia proprio quella che voi avete già citato nell'introduzione, la parola intelligente. Oggi low cost deve essere molto molto attentamente diciamo differenziato dal low price. Un prodotto low cost non è solo un prodotto che costa meno. Se noi pensiamo a OVS Industry, il vecchio OVS, o se pensiamo allo stesso Ryanair o anche a H&M o Decathlon, noi non pensiamo di comprare quei prodotti solo perché costano meno, ma perché hanno tutto un insieme di altre cose, compreso il prezzo, che sono molto interessanti. Ma la parola chiave, che è un po' la sfida del marketing dei prossimi anni, è proprio la parola intelligente. Oggi chi compra low cost non necessariamente è una persona a basso reddito, non necessariamente una persona che deve solo ed esclusivamente risparmiare. Basta che andiamo in giro in via Monte Napoleone, vediamo come le persone normali o le persone o gli shopping vittime hanno da una parte un sacchetto magari di Burberry e dall'altra su questo una punto... shopping bag di H&M. Esatto, avevo un bellissimo pezzo del suo libro che volevo leggere, me l'ha bruciato, ma poi lo leggo lo stesso perché appunto è pienamente rappresentativo di quello che ci sta raccontando Ingegner Rizzo. Si lascia quello, soprattutto in Italia, dove sappiamo siamo sempre stati attenti a questo tipo di livello di consumi, di posizionamento, del bello e quindi anche del caro, vedere quello che sta succedendo, magari con un po' più di ritardo, ma con delle cifre assolutamente considerevoli, è forse quello che mi ha impressionato di più. Oggi anche gli italiani che sono in Europa, questo è un dato statistico, i meno attenti al prezzo, molto meno dei tedeschi e molto meno degli inglesi, anche oggi gli italiani stanno facendo forte attenzione a tutta questa serie di prodotti e di servizi, non facendosi influenzare solo dal prezzo. Oggi chi viaggia a Ryanair o chi compra da Decathlon non compra solo per il prezzo basso, ma compra, c'è un insieme di altri elementi ed è convinto di fare un acquisto intelligente. L'ultima cosa che dico è che una cosa che gli italiani si sono sempre contraddistinti anche in momenti di crisi dei consumi è che l'italiano, quando ha la consapevolezza di fare un affare, l'affare anche della giornata, assolutamente mette mano al portafoglio. Questo è un meccanismo molto più forte che in altri paesi, è stato rilevato, ma l'italiano, e non sto parlando naturalmente solo del successo degli outlet ma di altre cose, quando ha la consapevolezza di fare un affare anche in un periodo di crisi, anche se ha deciso di non comprare, comunque apre il portafoglio e va alla cassa. Ecco, questo forse il low cost in Italia, mentre quando uno pensa al low cost in Germania pensa ai primi hard discount della Lidl che gli italiani bollavano come i supermarket dei tedeschi. Sì, poi guardi, ecco, non parliamo questo... come dire, della Germania in questo periodo, che con quella mozzarella che ci ha mandato blu, quindi non siamo molto portati a parlare con... Vabbè, però quello magari è un altro tema, quello no, è proprio l'estremo, diciamo la deriva, certo, del basso la cost. La sintesi che si potrebbe dire è il low cost non è un consumo triste, non è un punto vendita triste. Oggi è considerato, e sempre di più, se guardiamo anche gli slogan pubblicitari, non solo di Dacia, la prima e vera unica auto low cost, è un consumo intelligente. Questo credo che sia la molla più forte per far progredire questo tipo di offerta. Allora, molti ascoltatori sono pienamente consapevoli di tutto questo che lei ci stava dicendo, Ingegner Rizzo. C'è Luca che ci scrive: attenzione, low cost non è lo stesso oggetto o servizio a minor costo, si tratta di cose diverse, piuttosto è un modo diverso e consapevole di consumare. Luca, effettivamente io ringrazio che lei rafforzi ulteriormente quello che noi stavamo già dicendo e il tema dal quale siamo partiti. Ci sono invece altri ascoltatori che vogliono intervenire all'800240024, adesso li sentiremo dopo la nostra prima pausa, che invece ritengono che il concetto del low cost non possa essere applicato ovunque. Un altro tema molto bello, lo abbiamo affrontato anche in passato da questi stessi microfoni con Andrea Cinosi, presidente di Asso Low Cost, ed altri ospiti. Il tema è anche dell'ampliamento del campo d'azione del low cost all'ambito dei servizi. La sanità low cost, è possibile anche parlare di una filosofia low cost nell'ambito delle prestazioni sanitarie? È possibile, a patto che naturalmente si accetti il fatto che in certe strutture la produttività deve avere certe regole. Provate ad osservare con attenzione alcune situazioni interessanti. Seriosi manager incravattati in trasferta accanto agli studenti nei voli Ryanair. Le shopping bags di Zara vicine a quelle di Burberry, nelle mani di distinte signore a passeggio nelle vie del centro. I modelli recenti di auto Mercedes nei parcheggi degli hard discount Lidl, oppure l'aspetto elegante di molti clienti alle casse dei negozi italiani di Camicissima o Carpisa. Queste situazioni, così frequenti e normali al giorno d'oggi, stanno ad indicare l'indiscusso appeal conquistato presso i consumatori di tutto il mondo da determinati prodotti e servizi a buon prezzo analoghi a quelli appena citati. E noi di questo stiamo parlando stamattina, della filosofia low cost, la cui analisi è al centro di Low Cost Mania, un volume edito dal Sole 24 Ore, scritto da Giorgio Rizzo, un esperto di consumi, dinamiche di consumo, marketing dei consumi. E stamattina stiamo affrontando questo mondo per superare un po' le perplessità di chi non ne si lascia convincere da questo modo di operare delle aziende, questo modo anche di acquistare da parte dei consumatori. Insieme a noi anche Andrea Cinosi, presidente di AssoLowCost. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Prima di ritornare ad Andrea Cinosi, vorrei subito coinvolgere i nostri ascoltatori, così magari mettiamo sul fuoco altra carne, altra ciccia, per rendere la nostra conversazione ancora più accattivante, se possibile. Antonio, dalla provincia di Milano, buongiorno, benvenuto. Ah, buongiorno e complimenti per la sua bella trasmissione. Grazie Antonio, grazie a lei. Allora, volevo dire una cosa molto semplice. Sul fatto degli aerei, io credo che low cost sia importante e sia inserito bene. A livello di automobili, perché uno che prende l'aereo per andare magari a Lamezia, a Catania, così, sul fatto su internet, uno va a vedere affitto macchina low cost, 19 euro, 20 euro, 13 euro, 15 euro, poi vai a notare che vai per risparmiare su un'auto qualsiasi da scegliere e ti accorgi che alla fine costano tutti uguali quando fai il preventivo. Allora vedo che c'è più che altro un low cost da cartello, ecco, questo volevo dire io. Allora Antonio, adesso faccio fissare questo suo spunto tra gli appunti di Andrea Cinosi, ma visto che ha introdotto il tema dell'auto, che mi pare effettivamente un ambito di applicazione abbastanza complicato, almeno per me, però poi verrò probabilmente smentita anche dalle considerazioni degli esperti del settore. Dario, dalla provincia di Pavia, vorrei mettere anche il suo spunto, perché mi pare che lo stesso di auto volesse parlare, giusto? Sì, esatto. L'argomento l'ha toccato l'ascoltatore precedente, però volevo dire, io che ho acquistato e avuto nella mia vita circa 30 automobili di tutti i tipi, anche di lusso, per ragioni di lavoro, per ragioni aziendali, visto che ho fatto 20 anni dirigente d'azienda e adesso sono imprenditore, certo. Nonostante il reddito ho comprato un'auto low cost, cioè una Dacia Logan familiare. Sì. Che cosa mi aveva attirato? Il fatto che questa vettura, al di là del prezzo basso, 14.000 euro, avesse tutte le cose essenziali per la guida, senza tutti quegli orpelli che in molti casi, avendo constatato nelle macchine precedenti, erano anche così non necessari. E in particolare alcuni di loro distraevano dalla guida. Quindi io ci metto dentro la sostanza, che è quella di avere un'automobile, adesso non voglio rifare il nome della stessa marca, voglio dire, che funziona bene, non gli manca nulla, ha lo stretto necessario, l'indispensabile. E quindi insomma lei ha perfettamente capito che convertendosi, ma poi non è che deve capitare in tutti quanti gli ambiti della vita, a questa filosofia non è che come dire sia successo niente di strano, e comunque ci ha trovato tutti quanti vantaggi e poche perplessità. Peraltro leggo anche un'altra considerazione di Roberto, che invece dice: low cost sarà la morte del made in Italy per i nostri prodotti. Perché effettivamente, Cinosi, io stavo dando un'occhiata alle 20 aziende che sono rappresentate nella vostra organizzazione, molte italiane ma anche molte straniere. Vabbè, fatto il caso eclatante di Ikea, che tutti quanti noi conosciamo benissimo, basti vedere il pienone di questi centri nel fine settimana. E in sostanza, allora, per quello che riguarda effettivamente l'auto, c'è un solo marchio nella vostra organizzazione? Sì, assolutamente, perché è l'unico marchio che risponde ai criteri che abbiamo elaborato in collaborazione peraltro con la Luis e la Bocconi, con esperti a livello nazionale e internazionale. Quindi quali sono i criteri per entrare? Adesso magari facciamo l'esempio dell'auto per poi estendere anche gli altri campi. Ma guardi, per quanto riguarda in generale, occorre che il prezzo sia ridotto rispetto alla media del prezzo di mercato nel corso dell'intero anno, e inoltre il prezzo va paragonato nei mercati segmentati rispetto allo stesso segmento, nel senso, nel caso auto non possiamo considerare low cost tutte le auto che costano poco, nel senso le utilitarie vanno paragonate con le utilitarie evidentemente e vanno tenuti in considerazione elementi quali la spaziosità ad esempio, piuttosto che tutta una serie di ulteriori accessori. Un altro parametro che è fondamentale è che questo è l'elemento che poi non consente di ammettere in associazione realtà differenti, risiede nel come l'azienda ottenga delle ottimizzazioni di costo e quindi riesca a proporre un prezzo inferiore, perché queste riduzioni di costo non devono andare ad incidere rispetto ad elementi del settore auto quali la sicurezza, l'affidabilità, ma piuttosto rispetto ad elementi in generale di garanzia del cliente. E poi ci accorgiamo che questo è possibile realizzarlo, perché diceva giustamente il nostro ascoltatore, la Dacia è un'auto essenziale che comunque senza tanti orpelli assicura qualità, sicurezza, affidabilità. La Dacia ha linee meno stondate e questo consente già in termini di realizzazione di avere dei costi assolutamente minori, insomma. Senta, anche altri nomi dell'industria automobilistica hanno bussato alla vostra porta? Guardi, ancora no, semplicemente perché alcuni nomi dell'industria automobilistica hanno annunciato di volersi, insomma, posizionare sul mercato del low cost, magari con nuovi marchi, però questi lanci sono attesi nei prossimi 2 anni. Mm. Quindi da questo punto di vista è un mercato interessante, e peraltro lo testimoniano gli stessi dati di Dacia. Citava lei nei dati economici iniziali l'andamento del mercato auto nell'ultimo mese. Ebbene, Dacia semplicemente realizza un più 46,1% nel primo semestre del 2010, il che la pone nel marchio che performa di più nel settore auto in generale. Dottor Cinosi, io sempre ho sotto gli occhi, appunto mi sono stampata la lista delle 20 aziende che aderiscono alla vostra associazione, e vedo che è un mondo prevalentemente o comunque largamente popolato dal settore assicurativo e bancario. Come mai in tanti altri segmenti produttivi si fa un po' più fatica a sposare la filosofia del low cost? Allora, o perché invece questi ambiti riescono più facilmente ad aderire a certi criteri, a sposare certi criteri produttivi, piuttosto che, perché poi tra l'altro per quello che riguarda il settore bancario, voglio dire, per tutti i risparmi che in realtà l'azione low cost ha portato anche tra i consumatori, come dire, avere l'assicurazione online piuttosto che il conto corrente online, sappiamo benissimo quanto ci fa risparmiare. Eppure ci sono ancora tante perplessità da parte di molti utenti di questi servizi a appunto aprire un'assicurazione con questo canale piuttosto che un conto bancario con questo canale. Sì, assolutamente, queste perplessità ci sono, e dipende proprio da un discorso culturale italiano rispetto al quale stiamo facendo cultura. Di fatto, al fine di garantire proprio la sicurezza del servizio, nel caso delle assicurazioni, tempi di risarcimento, assistenza 24 ore su 24, questo significa poter operare prevalentemente su 2 canali, uno l'utilizzo della tecnologia e l'altro è l'abolizione dei canali distributivi fisici, che rappresentano un forte costo e dunque una forte incidenza sul costo del servizio. Ciò detto, in questi settori è un'idea anche il settore dei viaggi, che è in grossa crescita. Sono dei settori dove adottare delle ottimizzazioni diventa più semplice, perché aiuta moltissimo la tecnologia e quindi il mezzo web. Ecco, peraltro lei citava prima, sono presenti spesso marchi stranieri, e il low cost, diceva Roberto, l'ascoltatore, insomma, potrebbe rappresentare una morte del Made in Italy. Io credo che il low cost, essendo un fenomeno che si sta affermando a livello mondiale, meriti di essere studiato, e che soprattutto l'imprenditoria italiana abbia l'esigenza di comprenderlo più a fondo, e noi stiamo organizzando delle iniziative in tal senso, perché comprendendolo, a mio avviso, invece può essere un elemento di forte stimolo per la crescita dell'imprenditoria italiana sia in Italia che all'estero. Infatti, per esempio, molti settori, e qua volevo andare a quello sanitario, hanno anche cavalcato quest'onda per magari dare anche opportunità occupazionali, come è accaduto per esempio con l'apertura, perché anche questa è un'esperienza della quale abbiamo parlato, a Salvadanaio, del centro medico Sant'Agostino qui di Milano, o degli studi dentistici low cost, anche se poi c'è stato l'altro caso di Monza, di questo studio che è chiuso improvvisamente improvvisamente, lasciando molti clienti, come dire, con la bocca anche rifatta a metà. Quella non era un'azienda che aderiva a questa organizzazione e quindi sposava certi principi anche di produzione e di operatività, per cui bisogna fare anche le distinzioni. I casi estremi, le derive ci sono in ogni campo, per cui anche lì, insomma, è un ambito che dobbiamo conoscere molto bene, saper distinguere anche all'interno di questo. Quattro domande di quattro ascoltatori, tra l'altro vedo che sono domande bellissime, riflessioni molto interessanti. Io la lascio fare rapidamente a Fabio da Roma, poi andiamo a suggerimenti perché in viaggio, e torno dopo all'ingegner Rizzo. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Perché noi abbiamo anche citato in un passaggio del libro dell'ingegner Rizzo l'azienda di cui vuole parlare lei. Sì. Non mi faccia chiamare poi dall'amministratore delegato o dall'ufficio. No, sto scherzando, Fabio. Fabio, qua possono parlare tutti tranquillamente, l'importante è che si faccia con calma e serenità. Allora, guardi, io mi ritengo un consumatore piuttosto critico, tanto è vero che a livello di low cost ho scelto, prima lei parlava di strutture bancarie assicurative, ho scelto da anni una banca che, non avendo lo sportello fisicamente inteso, classicamente inteso, consente di avere tutta una serie di vantaggi dal punto di vista dei costi, delle gestioni, dei bonifici, eccetera. Ci sono però dei però. Io ho lavorato in una delle aziende prima citato, non so se ne posso fare il nome. No, la può fare, perché comunque questa azienda non è nell'associazione a solo costo, poi magari ci faremo... Perfetto. Allora, io ho lavorato in Lidl, Italia. E, il consumatore probabilmente non sa che i prodotti Lidl, che secondo me sono prodotti di ottima qualità e che costano effettivamente meno, il costo inferiore che va a pagare il consumatore per fare la spesa alla Lidl è dovuto sia a un'efficienza, a un modello organizzativo molto efficiente. Sì, i banchi, diciamo, organizzati in maniera, sì, alla cultura tedesca. Però quello che probabilmente i consumatori non sanno, che se con mia gioia ho notato che ad esempio nel blog di Beppe Grillo qualcuno già l'aveva fatto notare questa cosa, qualche altro dipendente ex Lidl, c'è una gestione del lavoro dipendente, diciamo così, discutibile. Del personale. Io potrei tenervi qui fino a domani mattina a raccontarvi tutta una serie di episodi allucinanti. No, però è un tema... vanno contro tutti i diritti del lavoratore, tanto è vero che Lidl si è presa anche delle belle multe dal Tribunale del Lavoro di Savona, ad esempio, perché alcuni hanno riuscito a certificare una gestione del lavoro. Fabio, adesso magari... No, io vorrei... Adesso guardi, la sentiamo anche male, devo andare in pausa adesso, ovviamente non abbiamo qui l'azienda, non vorrei anche attribuire delle cose di cui io non ho potuto testare personalmente l'esistenza, per cui anche per correttezza, anche se non ho nessun motivo di dubitare di quello che lei ci racconta, però il tema anche dell'organizzazione del lavoro all'interno di questa azienda, mi chiedo come venga valutato da solo costa anche ai fini appunto di far aderire alla propria organizzazione queste aziende che appunto sulla filosofia low cost fanno marciare pienamente il loro business. Ancora pochi minuti prima di salutarci, molti ascoltatori ci chiedono un numero di riferimento di AssoloCost. Cinosi, rapidamente vengo da lei, poi però il tema affrontato dall'ascoltatore prima volevo anche affrontarlo con Rizzo. Avete un sito internet che è, immagino, www.assolocost.it, perché è quello al quale sono arrivato. No, .eu. Infatti. Benissimo. Numero verde, numeri di telefono oppure... Allora, numero di telefono è lo 06 32 33479. No, mi chiedo anche gli ascoltatori che cosa vogliono farvi raccontare direttamente, perché vogliono direttamente appunto sentirvi. Ingegner Rizzo, allora, capitolo 3 del suo libro, il vero low cost nasce dalla strategia aziendale. Qualche azienda ha una strategia aziendale, soprattutto di gestione dei dipendenti, secondo quello che raccontano i nostri ascoltatori, un po' discutibile, chiamiamola così. Cosa pensa di quello che ci ha raccontato l'ascoltatore prima? Allora, cerco di dare una risposta esauriente ad alcune domande che sono rimaste aperte. Allora, è innegabile che c'è stato un boom del low cost negli ultimi anni, con due grossi acceleratori. Uno l'ha già detto Cinosi prima, ed è internet, soprattutto sulla parte dei servizi. L'altro sicuramente è la crisi, che ha affinato l'attenzione del consumatore. Come tutte le esplosioni, sicuramente ci sarà un processo di selezione che andrà a toccare varie cose, compreso gli aspetti etici. AssoloCost ha un filtro etico, sì, che va a toccare diciamo, la gestione dei dipendenti, cosa che non tocca solo Lidl ma anche giganti come Walmart o altre cose, ma può toccare anche il costo che c'è dietro il prezzo di una maglietta a 12 euro. È il consumatore alla fine, non sarà poi se uno va a comprare al banchetto dei cinesi al mercato la maglietta a 3 euro, sappiamo benissimo anche i cinesi in che condizioni lavorano. Anche Decathlon dall'alto del suo successo mondiale offre Polo a 12 euro, cose di questo genere, però io credo che alla fine sia il consumatore che farà il filtro più grosso fra le aziende meritevoli e le aziende meno meritevoli. Quello che però... Pronto? Sì, sì, pronto? Ci siamo. Sì, sì, no. Quello che invece forse è da sottolineare, cerco di rispondere a quel signore che citava la possibile morte del Made in Italy, che io non credo assolutamente a una vita tutta low cost, indipendentemente dal reddito. Qui non stiamo ragionando in termini di integralismo o di neopauperismo nei consumi. Chi oggi compra un servizio, un prodotto low cost, magari il giorno dopo compra un bellissimo portafoglio di Gucci o una bellissima scarpa di Tod's. Quindi il fatto che sia una vita tutta low cost non ci credo. C'è la possibilità di accedere con notevoli risparmi documentati sul sito di low cost per chi vuole capirne meglio, ma una famiglia che può risparmiare dai 500-600 euro al mese penso che sia una cosa interessante, accedendo solo o piluccando o facendo shopping solo su alcuni aspetti low cost. Quindi sicuramente non stiamo parlando di un aspetto integralista, e quindi il filtro che andrà a riguardare anche quelle aziende che magari vanno a toccare i diritti dei lavoratori o altri comportamenti non etici, finito questo boom, un momento che questo boom sarà stabilizzato e dove speriamo che molte altre aziende italiane riescano ad arrivare ai successi dei giganti che lei citava, che oggi tra l'altro per inciso fanno dei profitti pazzeschi, perché a livello aziendale oggi colossi come H&M e Zara fanno utili netti superiori ai 100 milioni di euro al mese. Questo vuol dire assunzione, vuol dire sviluppo. Stiamo parlando di un settore che in Italia conta circa vale il 6% del PIL. Quello che sicuramente sono due cose, e vorrei concludere per cercare di tirare una sintesi. È opinione di tutti, quindi non solo del sottoscritto, che anche quando la crisi, speriamo presto, inizia veramente a calare, il low cost resterà una realtà, perché chi è abituato ad usare determinati servizi e prodotti non è che se aumenta il suo reddito non va più con Ryanair o non compra più da OVS o non compra più i costumi da Intimissimi, e questo è un dato, quindi ormai è un cambiamento strutturale e non è legato solo al reddito disponibile. L'altra cosa è che appunto ci sarà un affinamento, una stabilizzazione dei protagonisti, dove la parte etica, la scelta etica, come questi signori si comporteranno sul mercato, sarà veramente una delle molle per decretarne il loro vero successo. Allora, prima di sentire gli altri ascoltatori, le voglio fare anche un'altra domanda, ingegner Rizzo, perché questo è stato oggetto anche di altre puntate di Salvadanaio che ha suscitato grandissimo interesse. La sanità, le visite specialistiche, le cure dentistiche, in questo ambito c'è sempre la percezione che si abbia diritto ad una prestazione eccellente solo se la si strapaga, se si strapaga lo specialista. In questo campo quanto margine di crescita c'è per la cultura low cost? Rizzo? Sì, sì, mi sente? Sì, pronto? Sì, la sento. Sì, senz'altro questo è un campo abbastanza recente, dove si stanno facendo degli sviluppi interessanti in campo dentistico, in campo veterinario, dal punto di vista dei commercialisti, dal punto di vista degli avvocati, quindi i servizi in generale. Credo che sia ancora parecchio tempo da fare, parecchio discorsi o parecchia evoluzione a breve. Credo che però l'equazione pago tanto e quindi ho un servizio buono non sia sempre valida, come non è sempre valido, quindi dipenderà dalla singola offerta, dalla singola organizzazione che si pone sul mercato e soprattutto all'intelligenza e alla selezione da parte del consumatore, perché non tutti hanno bisogno del principe del foro per fare una causa da condominio e non tutti hanno bisogno del luminare per un raffreddore. Quindi ci sono una serie di cose che devono essere selezionate con attenzione, e quindi credo che ci saranno opportunità di sviluppo sia per i prodotti premium o per i servizi premium, quindi di un certo tipo, sia per certi tipi di low cost. Le prime consulenze avvocatizie low cost sono anche, diciamo, in mano a quelle persone che magari a un principe del foro non oserebbero neanche bussare, quindi non è un depauperamento del mercato dell'alta avvocatura. Ci sono delle persone che oggi si rivolgono agli avvocati low cost per avere, magari in un centro commerciale, anche se può far abbrividire, diciamo, chi ha una visione classica della professione, ma magari può avere una prima indicazione che dopo può essere sviscerata anche nel campo di un avvocato, diciamo, benissimo, classico. Ecco. Volevo sentire Francesco da Matera rapidamente, perché ci dà modo di toccare anche un altro settore e poi concludere con Andrea Cinosi, anche se io veramente sono sorpresa delle tantissime telefonate che sono arrivate questa mattina e mi fa davvero piacere, segno che dovrò di nuovo riaffrontare questo argomento, magari in autunno. Francesco da Matera, rapidissimo, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Chiamo Matera. Attualmente volevo chiedere una cosa. A Matera si sta sviluppando distretto ormai nuovo, quello d'alberghiero. Noi siamo passati dal distretto del salottificio al distretto alberghiero ultimamente. Mm-hmm. Volevo chiedere se il low cost, la filosofia low cost può essere adottata al settore alberghiero, che in tutta Italia, non solo qui, ormai è in grossa crisi, perché ha prezzi fissi bloccati per quanto riguarda le tariffe. E volevo chiedere se nell'arco dell'anno, cambiando ovviamente le tariffe, ci possa essere degli introiti e quindi dei maggiori profitti da parte degli stessi alberghieri. E soprattutto che cosa può fare in sostanza una struttura alberghiera? Certo, Francesco, indicazioni pratiche. Dottor Cinosi, ha sentito, bella domanda, e poi se vuole intervenire sul caso del centro commerciale citato prima, io rabbrividisco a ricitarlo perché ho paura qua che l'azienda mi chiami e stamattina si arrabbiano anche un po'. Speriamo che sia magari un pretesto per loro di cambiare un po' di cose se alcune cose non vanno. Comunque questa azienda nella vostra lista non c'è. Cinosi. No, diciamo non c'è, ma per questo diciamo non possiamo affermare, insomma, se non, insomma, credo che sia corretto anche sentire il parere dell'azienda. Quello che è certo è che noi come AssoloCost abbiamo proprio inserito 4 punti all'interno del codice etico che riguardano il rifiuto dello sfruttamento del lavoro minorile, la salute e la sicurezza dei lavoratori, il trattamento economico e le pari opportunità. Quindi le aziende che si associano devono aderire a questi punti e laddove si rilevi diciamo una difformità nei fatti rispetto a quanto dichiarato, l'azienda rischia di essere sommessa e questa sarebbe una gravissima pubblicità. Settore alberghiero, sì, certo, problema reputazionale. Sicuramente è uno dei settori che soprattutto in Italia, che fa dell'asset turistico uno dei principali asset del paese, è uno dei settori che più ha possibilità di sviluppo e vorrei confortare il nostro ascoltatore da Matera, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, nel senso per poter fare low cost nel settore alberghiero bisogna individuare sicuramente una serie di ottimizzazioni di costo, realizzare economie di scala e queste possono essere realizzate in diversi modi e con assoluto. Ecco, potete fornire per esempio voi una consulenza in questo senso, Cinosi, poi la devo salutare perché abbiamo sforato anche il tempo a disposizione? Guardi, noi sicuramente in questo senso possiamo indicare quali sono gli ambiti praticati anche da catene alberghiere low cost all'estero. Benissimo. E che possono essere adottati. Come esempio? Benissimo. Come esempio, noi abbiamo le catene Cube e Tap Hotel all'estero, sono catene molto, molto diffuse. Benissimo, la faccio mettere in contatto allora con il nostro albergatore di Matera. Grazie ad Andrea Cinosi e a Giorgio Rizzo, autore di Low Cost Mania. Salva Danaio torna domani, scusate per il ritardo, buona giornata.